E oggi questa mobilitazione prende forma per una questione molto importante. Infatti oggi è la giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito. Quindi quest'anno abbiamo deciso di scendere per le strade sotto forma di corteo proprio in questa giornata per lottare e non far sì che non sia solo una giornata di ricorrenza simbolica, ma per avere una dimensione di lotta viva, e perché quest'anno ci sono stati numerosi attacchi al diritto dell'aborto, ma anche numerose vittorie, diciamo, a livello internazionale. Quindi sentiamo un collegamento con la dimensione internazionale più vivo che mai. Proprio pochi giorni fa è stato dichiarato legale finalmente nel 2021 l'aborto a San Marino. A dicembre scorso le argentine, dopo una lotta di decenni, sono riuscite a ottenere la legalizzazione dell'aborto, però purtroppo non sono mancate nemmeno gli attacchi a questo diritto, quindi in Texas, alla Polonia, dove è stato reso quest'anno sempre più difficile fare un'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi ecco, è nella cornice di questa dimensione internazionale per noi imprescindibile, e con le realtà transfemministe di Bologna, quindi una di meno Bologna, laboratorio smascheramenti, la maleducazione, non muore, abbiamo fatto prendere forma questa giornata di lotta che non sia solo una ricorrenza da calendario, ecco, diciamo. Una dimensione internazionale, ma ovviamente è un tema che riguarda anche il nostro territorio. Voi avete svolto una mappatura della questione dell'obiezione di coscienza nel nostro territorio, come siamo messi? Sì, la dimensione internazionale è importante, ma neanche qua, insomma, come sappiamo bene, siamo messi molto bene. Infatti, nonostante abbiamo una legge, la 194, che in teoria, insomma, ci garantisce l'accesso all'interruzione di volontaria di gravidanza, ecco, e non sono molto confortanti i numeri, perché appunto, come dicevi, abbiamo svolto questa mappatura dal basso facendo una domanda di accesso formale agli atti, e quindi abbiamo ottenuto il numero preciso di obiettori per ogni struttura, di obiezione di coscienza, quindi per quanto riguarda tutto il personale medico coinvolto per una IVG, quindi anestesisti, medici, infermieri e quant'altro. È venuto fuori che non siamo messi affatto bene, e proprio qua, a Sant'Orsola, nella regione, insomma il capoluogo della regione, che non manca mai di fare vanto il proprio sistema sanitario, purtroppo a Sant'Orsola l'obiezione di coscienza tocca il 71%, e sono numeri molto molto, insomma, allarmanti. Poi ci sono regioni chiaramente che toccano, dove l'obiezione tocca il 90%, sappiamo tutti e tutto il caso emblematico del Molise, in cui c'è stato per tanto tempo un medico solo non obiettore alla vigilia del suo pensionamento, non si sapeva come poter sopperire a questa mancanza, ecco. Quindi quello che è l'articolo 9, che garantisce l'obiezione di coscienza, non garantisce a noi, alle donne, la soggettività dissidenti di poter accedere a un aborto libero, insomma, legale e quindi sicuro per noi e la nostra salute. Quindi noi assolutamente rifiutiamo l'obiezione di coscienza, è una violenza, è una violenza sui nostri corpi. Questa mappatura dal basso in Germania è stata fatta da numerose realtà, come praticamente tutti i nodi di Nuova di Meno in Emilia Romagna, e noi Mueres, Casa Donne Ravenna, i Passi a Libera Donne, Casa Donne Parma. Quindi questo è molto importante, perché appunto anche il coordinamento di tutte le varie realtà in un'ottica di lotta all'obiezione di coscienza è molto molto importante, ecco, la sorellanza. Perché tanto in Italia quanto nel mondo ancora nel 2021 l'aborto non è un diritto riconosciuto? Come sempre sappiamo che si combattono sempre sui nostri corpi queste battaglie di repressione, queste ondate di repressione e questa sorta di controllo che l'autorità, che lo Stato, che la Chiesa in generale vogliono esercitare sui nostri corpi, in Italia come in tutto il resto del mondo. Insomma, purtroppo questa è una delle facce più esplicite del sistema patriarcale, ecco, perché il controllo sui nostri corpi è un fondamentale aspetto appunto di controllo più generale, di desiderio di controllo delle nostre vite. Ma la lotta è anche internazionale, non una di meno, ni una meno, sta internazionale. Quindi insomma, noi dentro questi percorsi continueremo a lottare con forza e a farci sentire in Italia come altrove, quindi anche soprattutto per questo oggi scendiamo in piazza. Come si svolgerà il corteo di questo pomeriggio? Il concentramento è alle 17:30 in Piazza del Nettuno, si partirà alle 18:30 e si farà un percorso per poi ritornare, insomma, in Piazza del Nettuno. Chiaramente ci impegniamo per un discorso di cura collettiva, a mantenere un distanziamento, insomma, a svolgerlo curando la nostra safety, la nostra salute collettiva. Ci sarà la possibilità di fare in piazza alcuni cartelli dove scrivere magari con rabbia le nostre rivendicazioni. Sarà un microfono aperto ovviamente per chiunque voglia parlare e condividere qualcosa della propria esperienza politica o personale, e quindi poi torneremo appunto in piazza.